L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, una nuova puntata dell'altro pianeta il cui filo conduttore è la resistenza, o forse potremmo dire meglio l'insistenza che cambia le cose. In questa prima parte ne parliamo con le piccole storie raccolte e narrate dal giornalista italiano che vive e lavora in Francia, Andrea Paracchini, pubblicate nel volume La Révolution dei Colibri. Nella seconda parleremo di pressioni più ampie come quelle che ha esercitato Greenpeace sulle multinazionali dell'abbigliamento per la sicurezza dei componenti che usano, pressioni che hanno già dato molti risultati. Ma cominciamo con il collegarci con Andrea Paracchini. Ricordo La Révolution dei Colibri, 8 percorsi di sostenibilità che stanno cambiando la Francia e potrebbero contagiare l'Italia. È un ebook con la prefazione di Luca Mercalli, Asterix Edizioni, 4,50 euro, quindi davvero un prezzo popolare. Andrea, benvenuto. Salve, salve. Parliamo intanto di questi 8 percorsi. Beh, dunque, io ho raccolto quello che ho potuto osservare in pratica in 6 anni di lavoro come giornalista specializzato in economia sociale e solidale e sviluppo sostenibile in Francia, in un po' tutti i settori, nel senso si va dall'agricoltura alle energie rinnovabili, passando per il turismo sino al lavoro, che occupa una parte abbastanza importante del libro. Sono 3 capitoli che sono dedicati al lavoro o alla creazione di attività, quasi sempre in ambito cooperativo, nel senso che la maggior parte delle esperienze che ho potuto osservare e che mi hanno più interessato erano effettivamente delle cooperative, quindi delle realtà in cui appunto più persone si univano per portare avanti un progetto comune. Si va da Terdelian, per esempio, che è uno strumento che è stato inventato nel 2007 per permettere di raccogliere il risparmio dei cittadini per consentire l'acquisto di terreni agricoli da sottrarre quindi alla speculazione e dare a giovani agricoltori che volevano praticare agricoltura biologica. Si parla per esempio dei greeter, che sono dei semplici cittadini che decidono di accogliere nella loro città un visitatore e mostrargli gli aspetti un po' meno turistici, un po' meno noti, la vera vita. E poi per esempio ancora le CAE, che è una cosa che a me piacciono molto, vorrei veramente vederle nascere anche in Italia, sono le cooperative d'attività emploi, sono delle grosse cooperative, grosso o piccole in realtà, per freelance, nel senso per lavoratori per freelance o per lavoratori indipendenti, nel senso si va dall'idraulico al giornalista, al creativo, al traduttore. E in pratica sono delle strutture che permettono praticamente di essere indipendenti, di gestire la propria attività, avendo però tutte le garanzie di un dipendente, quindi le ferie, la tredicesima, e una struttura comune che si occupa della contabilità, degli aspetti amministrativi, quindi insomma una struttura che facilita, dà sicurezza e soprattutto permette degli incontri, degli scambi e di lavorare assieme e quindi uscire un po' da quel senso di precarietà, di solitudine, certo. Difficoltà che tutti i freelance hanno vissuto, io stesso in quanto freelance conosco benissimo. Certo, e la cosa particolare, oltre al fatto che tu fai un'analisi così dice, veloce ma ben dettagliata di tutte queste situazioni, sono 8, è anche che ogni volta aggiungi un piccolo confronto con l'Italia. Adesso tu ci hai anticipato qualcosa nel parlare di queste cooperative, no? Una cosa che vorrei vedere in Italia, quindi sappiamo già che non c'è, in altre situazioni come ad esempio quella delle rinnovabili democratiche, così si intitola il capitolo, si parla di questa esperienza di produzione delle energie rinnovabili in un paese che è famoso per il nucleare, poi si fa un confronto con l'Italia. Io credo che se integrassimo le nostre esperienze otterremo un paese, non dico fantastico, ma quasi. Questo è sicuramente il caso. Nel caso del capitolo delle rinnovabili si vede proprio bene questo aspetto di complementarietà, nel senso che l'idea del libro non era di dare lezioni, non era di dire la Francia è stupenda, l'Italia è un disastro, dobbiamo magari copiassimo, ma se no non c'è speranza. No, in realtà in Italia l'economia sociale e solidale è un settore vivo, che ha una lunga tradizione, una lunga storia, in particolare le cooperative, quindi ci sono delle cose. Nelle rinnovabili, ad esempio, il nostro è un paese che anche per condizioni climatiche, geografiche, è avvantaggiato, nel senso che abbiamo rispetto alla Francia. Quindi in pratica, per esempio, da noi esistono parecchie cooperative di produzione, da noi ci sono sviluppate negli anni Rete Energie, altre iniziative più piccole, più locali, come il comune di Melpignano o alcuni comuni della Lombardia, che si sono dotati in cui i cittadini sono riusciti a investire direttamente nella produzione di rinnovabili, però in compenso manca ancora un po' il tassello della distribuzione, nel senso che ci sono degli ostacoli legati a paradossalmente al fatto che le cooperative dell'arco alpino, che erano esistono da centinaia d'anni e in pratica hanno un pochettino bloccato il modello, la situazione in Italia dal punto di vista legislativo, nel senso che oggi per fare una cooperativa che produce e distribuisce bisogna essere come loro e quindi disporre della rete, cosa che ovviamente oggi è impossibile perché nessuno può permettersi di comprare pezzi di rete di distribuzione, di tralicci, fili alla rete nazionale. Quindi in pratica questo ha un po' bloccato il dispositivo e in compenso manca un attore che faccia la commercializzazione in chiave cooperativa, nel senso che se c'è la possibilità in Italia di partecipare alla produzione e tanta gente vuole, i gas del fotovoltaico per esempio funzionano molto bene, i gruppi di acquisto per il fotovoltaico funzionano molto bene, manca ancora la possibilità di essere partecipi in quanto soci, in quanto membri, in quanto cittadini attivi della fase di distribuzione, di commercializzazione, che invece è quanto accade in Francia con Enercoop, che è una cooperativa che unisce i produttori e i consumatori all'interno della stessa cooperativa, che investe poi nella creazione di nuovi impianti di produzione in un paese appunto in cui il nucleare è molto potente e le rinnovabili hanno vita veramente difficile. Ecco, in Italia in realtà appunto ci sarebbero già degli attori, nel senso, se noi pensiamo ai supermercati della Coop, alla Coop, che è un supermercato cooperativo, noi possiamo andare a comprare per esempio una tessera del telefono, per cui per la telefonia mobile la cooperativa si è già interessata a distribuire, a commercializzare minuti di conversazione, potrebbe fare teoricamente la stessa cosa con i kilowatt prodotti di elettricità prodotti dalle cooperative di produzione. Per adesso non è così, però appunto guardando il modello Enercoop magari qualcuno potrebbe venire qualche idea. Insomma, è ora di fare, o almeno di provare a fare, questa rivoluzione dei colibrì. Scoprirete anche il perché di questo titolo leggendo l'ebook di Andrea Paracchini, ricordo Asterix Edizioni, 4,50 €, ma la rivoluzione dei colibrì è anche su Facebook. Grazie Andrea per essere stato con noi. Grazie a voi. L'altro pianeta. Ed eccoci di nuovo insieme. Come promesso, in questa seconda parte parliamo delle pressioni che è riuscita a esercitare Greenpeace sulle multinazionali dell'abbigliamento per la sicurezza dei tessili che usano. Siamo collegati con Chiara Campione, responsabile The Fashion Duel per Greenpeace. Benvenuta Chiara. Buongiorno a tutti. Allora, sei qui con noi intanto per parlare di questo rapporto Piccoli Mostri, che riguarda le sostanze chimiche che si trovano nell'abbigliamento dei bambini, ma non solo, purtroppo immagino di tutti noi, a maggior ragione è preoccupante che siano però in quello dei bambini. Io ti chiederei intanto di, diciamo, riassumere un po' la situazione per i nostri ascoltatori e poi appunto andiamo verso l'obiettivo, cioè chi la dura la vince. Alla fine sono arrivati i risultati di tanta insistenza presso i grandi marchi internazionali dell'abbigliamento. Cominciamo appunto però dal perché, che cos'è e cosa succede. Ma la nostra campagna che chiede, diciamo, l'eliminazione delle sostanze chimiche pericolose all'industria tessile e quindi anche ai marchi globali dell'abbigliamento, sia nella fascia del fast fashion sia nella fascia dell'alta moda, è iniziata, poiché da anni noi lavoriamo, come molti sanno, anche nel sud del mondo, dove queste industrie tessili sono concentrate, dalla Cina al sud-est asiatico al Messico. In questi anni noi siamo riusciti in qualche modo a risalire su per la filiera, quindi dall'evento catastrofico dell'inquinamento di un fiume ai responsabili di alcune industrie tessili, e abbiamo cominciato a collegare queste industrie tessili con alcuni brand di abbigliamento. Da quando abbiamo cominciato la campagna, quindi pubblicando i nostri dati e chiedendo alle aziende che erano coinvolte l'eliminazione delle sostanze tossiche, già abbiamo ottenuto tantissimi risultati, perché dopo 2 anni di attività sono ben 19 i marchi, i brand globali che si sono impegnati ad eliminare le sostanze tossiche dai propri prodotti e quindi dalle filiere. Tra gli italiani, per esempio, visto che sono un po' un orgoglio nazionale, Valentino e Benetton sono le prime 2 aziende che già l'anno scorso si sono impegnate in questo percorso che noi chiamiamo detox, no? Disintossicazione, certo. Passatemi il termine, delle proprie filiere e dei prodotti. Quello che invece abbiamo denunciato con questo rapporto dei piccoli mostri è che purtroppo anche abbiamo acquistato 82 capi per bambini tra il maggio e il 2013 di diversi marchi, quindi da Disney a Gap, da H&M a Burberry, Nike, Puma, trovando in quasi tutti i campioni, nel 95% dei campioni, sostanze chimiche pericolose, dai nonilfenole tossilati ai composti perfluorurati, che sono tutte composti che sono altamente inquinanti, quindi altamente impattanti per l'ambiente, ma potenzialmente pericolosi anche per la salute, perché interferiscono con il nostro sistema immunitario, con la fertilità e persino con la tiroide. Quindi possiamo dire che sono prodotti doppiamente dannosi: sono dannosi per l'ambiente e le persone là dove vengono prodotti, e sono poi dannosi per chi li indossa. Sì, chiaramente, come voi sapete, noi siamo un'associazione ambientalista, quindi non siamo degli specialisti della salute, ma di certo esistono già dei dati che sono pubblici. Per esempio c'è un rapporto italiano molto importante dell'associazione Tessile Salute, un'associazione tutta italiana, che ha fatto uno studio sulla popolazione italiana, stabilendo che ben il 7% delle malattie dermatologiche di cui noi soffriamo, dalle semplici dermatiti ma anche a quelle che poi possono portare purtroppo a processi cancerosi, dipendono proprio dalle sostanze tossiche che sono contenute nei nostri vestiti. Quello che noi abbiamo denunciato nel rapporto, e che ci sembra il dato più preoccupante, è che nonostante i prodotti che noi abbiamo acquistato fossero destinati a bambini e neonati, non è stata riscontrata una differenza significativa tra il livello delle sostanze tossiche che noi generalmente troviamo nei capi degli adulti e questi che abbiamo analizzato. Quindi evidentemente non c'è una maggiore attenzione di questi grandi brand neanche nella produzione di vestiti per i più piccoli. Cosa che noi diamo un po' per scontata nella nostra testa, invece appunto non è così, anche perché da noi vendiamo prodotti, anche immagino detergenti piuttosto che detersivi e così via, dedicati ai piccoli, quindi uno immagina che ci sia una cautela anche nella produzione degli abiti dei più piccoli. Sì, questo non c'è, nel senso i più piccoli, ci sono diverse normative europee, ma anche negli Stati Uniti e in altri paesi, che in qualche modo applicano dei principi di precauzione più restrittivi quando si parla di prodotti per bambini, ad esempio i giocattoli o alcuni alimenti. Per i vestiti non ci sono questi maggiori livelli di precauzione e quindi non c'è una maggiore attenzione o un minor uso, non sono più sicuri dei prodotti per gli adulti. Quindi non sono regolamentati in maniera restrittiva o specifica? Sono regolamentati esattamente come sono regolamentati i vestiti, l'abbigliamento in generale, ma non c'è una maggiore attenzione nei confronti appunto dei più piccoli. E questo già è un punto da evidenziare, magari anche per futuri regolamenti. Però appunto le alternative per la produzione di tessili sicuri ci sono, no? Quindi... Sì, le alternative ci sono, se noi, da quando appunto lavoriamo a questa campagna, vediamo, ci rendiamo conto che le principali imprese tessili che si muovono sul mercato globale possono, cioè hanno dimostrato di poter adottare soluzioni con un impatto significativamente minore per arrivare all'eliminazione delle sostanze chimiche pericolose. Esistono già delle sostituzioni, perché queste sostanze chimiche, insomma, va anche forse un po' spiegato dove vanno utilizzate, sono prevalentemente contenute nelle tinture, nelle stampe, in tutti questi processi, diciamo, che in sé rendono un tessuto adatto per una successiva lavorazione. In sé nessun tessuto è pericoloso, cioè il cotone in sé, la seta in sé non sono dei prodotti pericolosi. Quello che li rende più rischiosi per l'ambiente e potenzialmente rischiosi per la salute sono i trattamenti a cui vengono sottoposti per la tintura, per la stampa oppure per essere impermeabilizzati. Quindi l'impegno che chiediamo alle aziende è intanto di prendere, diciamo, un impegno, di essere ambiziosi e di prendere un impegno non tanto con noi ma con i propri consumatori, con il pubblico, con una serie di scadenze per arrivare all'eliminazione progressiva di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il gennaio del 2020, ma di eliminare immediatamente, quindi nel giro di un solo ciclo produttivo, quindi, o una collezione, come si dice, diciamo, nell'ambito della moda, quantomeno queste sostanze che sono più pericolose, cioè i nonilfenole tossilati, i composti perfluorurati e gli ftalati. Quindi le aziende che si sono già impegnate a detox hanno già eliminato queste sostanze che sono le più pericolose e stanno lavorando insieme all'industria per ripulire l'intera filiera. E grazie al lancio del nostro rapporto dei piccoli mostri, ma soprattutto grazie il coinvolgimento e la partecipazione davvero di migliaia di persone, è arrivata un'altra ottima notizia, perché Burberry, il marchio britannico del lusso, si è impegnato con Greenpeace, ma soprattutto con tutti i propri consumatori, a eliminare le sostanze chimiche pericolose dai propri prodotti. Continueremo a lavorare su tutte quelle altre aziende come Gucci, Versace, Louis Vuitton, Armani, che ancora non si stanno impegnando come vorremmo per garantire a tutti una moda più pulita. Senti Chiara, però in conclusione ti chiedo, su queste aziende, diciamo, è difficile, ma la pressione si può fare perché si sa con chi si ha a che fare, è molto più difficile magari trattare con una galassia di altre piccole aziende che producono beni non così di lusso ma normali. Come fate lì? Allora, in realtà la campagna, noi, insomma, nel corso della nostra campagna, noi abbiamo parlato a marchi globali di livello e di dimensioni sempre molto alte, quindi da Adidas a Nike o all'alta moda, no? Quindi come Valentino e Burberry, perché pensiamo che da un lato bisogna mettere insieme i marchi globali che producono tanto, no? Che hanno, diciamo, dei flussi di produzione molto importanti, ma anche quei marchi che hanno la capacità di invertire questa tendenza nel mercato, no? Come Valentino e come Burberry, che chiaramente non solo raggiungono l'obiettivo di poter garantire ai propri consumatori dei prodotti liberi da sostanze chimiche pericolose, ma che spingono allo stesso tempo il settore del tessile, che lavora per il lusso, a cercare delle soluzioni che poi saranno anche a disposizione di tutti gli altri brand. Ricordo ai consumatori, per l'appunto, ma comunque anche a tutti gli ascoltatori in generale, che i documenti di cui ci ha parlato Chiara Campione, che ricordo responsabile The Fashion Duel per Greenpeace, sono tutti disponibili su internet: il rapporto Piccoli Mostri, gli ultimi documenti di Burberry's, che accetta appunto questo nuovo percorso di produzione. Insomma, è tutto molto chiaro e trasparente per chi vuole seguire questa campagna e farne parte magari. Chiara, grazie per essere stata con noi, buon lavoro e a risentirci presto. Grazie a voi e arrivederci. Per scriverci l'altropianeta@radio24.it, da Laura Bettini un buon ascolto e appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.